e sulle differenze di Raverdì rispetto al cubismo. Mi sta venendo in mente in questo momento che, perché le abbiate più sensibili queste, e questo discorso, più sensibili, io direi di passare direttamente, lo facciamo dopo questo discorso, in corpore vili, per così dire, no? Passare direttamente a Reverdy e leggerlo, in medias res. Poi andiamo indietro, capito? Chiaro? Roberta, capito? Abbastanza. Non ha capito molto. Allora, io vi distribuisco questa poesia. Sperando che la portate, perché naturalmente oggi non la possiamo commentare. Cioè, vediamo un po', vediamo quello che si può fare. Allora, vediamo un poco se distribuitene un poco di qua. Distribuisco un po' qui. Vediamo chi manca. L'avete tutti? Come, a lei il libro? Allora, chi manca? L'avete tutti? Come va, l'avete tutti? Ah, avete il libro? C'è il credito. Questa è una tipica poesia di Reverdy, il quale ha scritto in diverse fasi della sua vita. E questa è la raccolta del Ardoise du Toit, che è una raccolta, mi pare, del 18. Ed è forse il momento più bello, più interessante. Lui aveva partecipato a Dada, aveva inventato e diretto la rivista Nord-Sud, Reverdy ha detto alcune cose interessanti, ma non era un peccatore, era un bravo uomo. Voi dite che è il mio Dio parlare di un poeta, un bravo uomo. Era un bravo uomo del sud, che parlava con un accento del sud, inutile dirlo, che ha scritto cose di pensiero, ma non sono particolarmente alte, che però ha fatto una poesia di straordinaria profondità. Una poesia, come avremo modo di vedere, che può sembrare monotona, nel senso che ripete gli stessi temi. Ora capite che questa accusa di monotonia può essere fatta a molti poeti, insomma. C'era chi diceva che Leopardi era monotono perché in fondo prendeva sempre le stesse lance, insomma, sulla sua vita infelice, eccetera, eccetera, sulla... Questa monotonia in realtà non solo non inficia la bellezza di queste poesie, ma è una sorta di poetica. Infatti ricordate queste frasi, non sono molte le frasi ricordabili di Reverdy, ma quelle che sono da ricordare valgono veramente la pena. Reverdy diceva: bisogna rimanere sempre dove si è. Cioè bisogna non perdersi di vista, sostanzialmente. Bisogna non perdersi di vista. Ora, tutti quanti sapete, appunto, parlavo, non so se ho concluso il discorso prima, di quel mio allievo commediografo, che era uno che traeva spunto dall'attualità, ma poi in realtà non aveva alcuna patria perduta dentro di sé, ed era uno che si spostava. Ora, la cosa naturalmente è complessa, cioè bisogna spostarsi, bisogna viaggiare, bisogna viaggiare. Ieri sera sentivo alla radio una bella conversazione su un argomento apparentemente molto semplice, in realtà interessante. Mi permetto un attimo di riproporvi, ve lo propongo. Lui, questo, non so se è un economista che parlava, insomma, però che andava a preoccuparsi di cose che hanno a che fare con la psicologia, però una persona di grande fascino, E diceva, dice, quando io ero un ragazzo andavo in montagna e ero con mio fratello e mio padre organizzava delle passeggiate bellissime, bellissime, di molte ore. E a me non veniva in mente di organizzarle, sebbene forse un ragazzino, forse grande, però era da lui che organizzava. Poi lui, io facevo degli studi universitari, facevo gli esami a giugno, beato lui, non andava alla sessione autunnale, quindi rimaneva lì in montagna, nella loro bella, fastosa villa, si suppone, di montagna, rimaneva con dei suoi amici, papà non c'era più, e a questo punto lui organizzava delle cite, no? Perché? Perché prima c'era uno che lo faceva, adesso non c'era più nessuno. E poi continuando diceva questo, che era un'abitudine una volta di, per i giovani, i ragazzi della maggiorità, di andare con un biglietto ferroviario, non mi ricordo nulla dei miei tempi, forse ai miei tempi non era nemmeno stato inventato il treno, non so se c'era già il treno, di andare con questo biglietto dell'Interrail, cioè andare con un biglietto solo potevi girare come volevi in Europa, no? Così. Allora mettiamo che un ragazzo, cioè un gruppetto di ragazzi, ragazzini, giovani, ventenni, come va bene, vadano a Parigi, va bene? Parigi è la capitale di Spagna. A un certo momento uno di questi ragazzi dice, sapete che vi dico? Io mi sono rotto le palle di stare a Parigi, ma come, sono pochi giorni che ci siamo. Andiamo ad Amsterdam. Amsterdam. Avete capito il genere? E le persone che erano molto contente di andare, di stare a Parigi, in quel momento cominciano a tirare dalla parte opposta e dicono no, a noi piace Parigi, cioè non erano particolarmente affezionati a Parigi, però vogliono rimanere lì. Allora c'è il partito che si crea di quelli che vogliono andare ad Amsterdam e quelli che invece vogliono rimanere a Parigi. Perché uno tira dalla parte opposta, diceva questo signore intelligentissimo ieri sera, dell'interlocutore? Perché se uno dice una cosa, l'altro lo contraddice. Voi sapete che nei rapporti, per esempio, tra amici di coppia, una delle cose più divertenti è che ci sono dei partner che hanno il gusto di contraddirsi. Tu dici una cosa e per tigna quello dice l'opposto. Vuole dire spirito cosa vuol dire per tigna? Perché mi contraddice il padre? Perché mi contraddice quando io voglio andare ad Amsterdam quello che dice Mariano Parigi? In realtà quello che sta facendo è un'operazione importantissima. È un'operazione di dialettica, di arricchimento. Se tu trovi una persona che ti dice sempre sì, la tua vita si appiattisce. Vogliamo riflettere su questo importantissimo concetto? La tua vita si appiattisce, no? Mi ricordo che avevo al mare una ragazza, sto parlando, molto carina. Io avrò avuto, non so, 23 anni, credo. Questa ragazza io le facevo un certo effetto e ne ero molto contento, non c'era alcun dubbio. Però a un certo momento mi sono reso conto che qualcosa non funzionava. Questa era una che mi diceva sempre sì. Questo dire sempre sì, in poco tempo, io che mi annoio molto facilmente, è diventato un fatto terribile. Cioè io volevo trovare qualcosa di nuovo, ma non un banale contraddittorio. In realtà quello che voleva era un allargamento di confini. Se tu vai allo psicanalista e lo psicanalista, tu dici una certa interpretazione della tua realtà, e lui dice sì, sì, lei ha ragione. Ma che cosa nasce? Che cosa crea? quando è che una bilancia si muove? Se io metto un chilo da una parte e un chilo dall'altra, la bilancia non si muove. Un chilo e mezzo, la bilancia si muove. Quindi è assolutamente certo che la fecondità intellettuale vada nel senso del viaggio. Chi viaggia è fecondo. È chiaro? È chi contraddice, chi viaggia. E allora come la mettiamo questa frase? Bisogna rimanere sempre dove si è. La mia spiegazione è che non la mettiamo affatto, nel senso che dobbiamo avere a che fare con queste due realtà mentali che il viaggio rende fecondi, ma che lo stare nella propria patria è indispensabile. È indispensabile. E forse possiamo notare proprio che uno scrittore che rimanga, è tutto un discorso aperto, che rimanga troppo nella propria patria senza viaggiare, a un certo punto diventa noioso, diventa ripetitivo. Un sommo scrittore. Prendiamo un sommo, tra i sommi, che insomma in questa stanza, altro in questa stanza, non ci interessa. Prendiamo uno che si chiamava Lev Tolstoi. Va bene? Tolstoi, come Gogol, tutti e due allo stesso modo, due scrittori russi allo stesso modo, avevano una fissazione. Quella di dover adempiere un compito, di avere una missione con l'umanità. Dovevano salvarsi e salvare, no? E tutto questo diventa ossessivo e pesante nella loro opera. Non erano capaci, intendete naturalmente in che termini, questi geni assoluti non erano forse capaci sufficientemente di viaggiare. L'adulterio di Anna Karenina veniva spiegato con Stoico il fatto che Anna non aveva coscienza di sé, questo era il suo pallino tremendo. Vronsky era uno senza coscienza di sé, quindi l'unica cosa importante della vita era avere coscienza di sé. E così naturalmente sono asfissianti, sono l'errore di Tolstoi, l'errore di Gogol era questo, eppure sono due geni. Ma chi viaggia troppo? Allora, quando uno è a che fare con il proprio pensiero, è veramente diviso fra queste due istanze. Da una parte, rimanere dove si è, stare nella propria patria. E non cambiare facilmente. Conoscevo uno che aveva grande successo nella vita, mi viene in mente questa immagine, e giudicavo io un imbecille. Lui non sapeva che lo giudicavo un imbecille. Un giorno ebbi una specie di oscura idea della sua imbecillità, fu quando mi disse che aveva 6 orologi da polso. Ora io forse perché ve lo do per quello che vale, ma nulla per esempio, nulla. Forse perché avevo una specie di culto del mio orologio, una specie di culto feticistico del mio orologio, non riuscivo a capire di ma come 6 orologi da polso, tutti belli, era in nato. Mi cambiava secondo il vestito, no? Un vestito sportivo, oppure un vestito serio, mi cambiava l'orologio. Ora, la cosa forse può sembrare normale, ma che sembrava strano vedere un personaggio che si affidasse a un oggettino come un orologio e si spostasse, ma uno, non so se rendo l'idea, insomma, ma uno nel proprio abbigliamento deve essere se stesso. Ci sono delle persone, nessuna allusione, che cambiano i capelli continuamente, no, non è lei, che cambiano i capelli continuamente, che hanno ragazzi della vostra età che hanno continuamente un qualcosa nuovo con cui vogliono parere originali, e poi vedi la fatuità di queste persone nei discorsi che fanno. Rimanere se stessi vuol dire, per esempio, quella persona che ha deciso, non so, mi vesto di viola, va avanti con il viola, no? Mi vesto di nero, va avanti con il nero. Quell'abito, quel modo di vestire, diventa una parte di lei, di lui. E questa è una tesi. Poi c'è un'altra tesi, opposta. La tesi per cui bisogna cambiare. Bisogna cambiare. E bisogna cambiare in modo selvaggio, feroce, continuo. Gli oggetti non devono mai stare, quelli a contatto nostro, nella stessa posizione. Ecco, io riflettevo su come queste due dimensioni della mente, queste due dimensioni morali, debbono saper avvicendarsi nello stesso individuo. Ci sono persone che sono fidanzate, lo sapete benissimo, voi siete pratiche, con il ragazzo che avevano 8 anni fa, anche se con questo ragazzo non hanno più assolutamente niente da dire. Io ho visto qui all'università tutti i rapporti, tutti, non uno, ha retto ai colpi di maglio della vita. Non uno, non uno. Perché? Perché la gente va avanti, questa è un'età di crescita, no? Cioè un'età in cui si cambia. A mia età non si cambia. Si cambia nel senso che si rincoglionisce. Ed è un cambiamento notevole. Un cambiamento notevole è importante, tranquillo, insomma, no? Il momento più grave, lo sapete, insomma, quando uno è gli altri. Cioè lui crede di essere rincoglionito e gli altri dicono di no. Poi c'è un momento in cui, lo sapete questo? Gli altri dicono che sei rincoglionito, ma lo dici anche tu. E questa è la fase più grave. Però la fase ancora più grave è quando tu non sai di essere rincoglionito, ma lo sanno gli altri che lo sai. E quella è una fase disperata. Insomma, muoversi, viaggiare o no. Questa è l'alternativa amletica. Viaggiare o non viaggiare. Rimanere dove si è o no. La mia sensazione, per concludere, portate naturalmente questa fotocopia la prossima volta, la mia sensazione è proprio questa, che il limite di Reverdini, e parliamo quindi subito del limite, poi avremo anche modo di parlare delle grandezze di questo poeta, il limite è che era troppo desolato all'idea di abbandonare la sua parte. Lui la sua patria ce l'aveva, molto bene. Se avesse rischiato, se avesse rischiato, forse sarebbe stato più grande. Mi seguite bene? Faccio in conclusione un parallelo fra due sommi scrittori americani che spero conosciamo. Uno è Saul Bellow e l'altro, l'autore di Herzog, Il dono di Humboldt, e l'altro è il sommo, tra i sommi sommissimi, Vladimir Nabokov, scrittore russo e poi americanizzato. E sto rileggendo a distanza di tanti anni Herzog e ho da poco riletto, ma direi letto perché quando ero giovane l'avevo appena in modo pruriginoso sfiorato, Lolita. È uno dei più grandi libri della storia dell'umanità. E vedevo la differenza fra uno che è smanioso di viaggiare in ordine alla propria patria, che è Nabokov, e l'altro che ha un modo accademico, compassato di porsi di fronte a se stesso. Tutti e due grandissimi scrittori, però notavo come in uno c'è un coraggio che è inebria, ed è Nabokov. L'altro ne ammiri la grandezza, ma non ne sei inebriato. Il limite di Reverdy forse era proprio questo. Colpisce poi, per concludere questo discorsetto, una volta mi hanno invitato a Parigi, alla École Normale Supérieure, a parlare di Reverdy. E tra l'altro ho visto il mio libro che avevo lì a Parigi, che mi è rimasto molto, molto fiero. E lì c'erano tutti i reverdiani, c'era due o tre francesi, un australiano, un americano, eccetera. C'era dall'Italia il sottoscritto, e in realtà erano stati tutti una ventina di persone. Sono passati da allora molti anni, questo è avvenuto nell'89. Ma mi colpiva vedere di questi studiosi, c'era uno che era geniale, però non era un reverbiano, era un filosofo. Gli altri erano modesti. Allora io pensavo, ma com'è possibile che questi sono modesti in relazione alla... No, erano persone che erano affascinati da questo non viaggio. Quindi facevano dei buoni lavori critici, però era come se il viaggio non fosse... Non... E infatti era difficile fare amicizia. Io feci amicizia con una signora giovane tedesca, e lei mi confermò questo sospetto, insomma, che mancava a Reverdy questo amore del viaggio. Ho voluto cominciare in modo, spero, anticonformistico, il discorso su Reverdy parlando subito di questo limite, uno che rimane dov'è. Uno che non sa viaggiare, per potervi dire dopo quello che è la sua cosa più notevole, cioè ha descritto come nessun poeta francese della prima metà del Novecento, la condizione di angoscia dell'individuo nei confronti della realtà circostante. Fermiamoci qui, abbiamo recuperato, vi ringrazio della pazienza e scusatemi per il ritardo, portate naturalmente la fotocopia o lunedì, io non so se c'è sciopero generale o no, non lo sapete nulla? Vabbè, in assenza di indicazioni ulteriori ci vediamo ovviamente lunedì.